ascoltate ogni tanto molto molto tra virgolette gracchiare, perché sono opere che hanno perso la copertura dei diritti d'autore, un po' perché sono molto molto vetuste, nel 1910, 1895, e un po' perché sono notevolmente rovinate, quindi hanno perso la copertura dei diritti d'autore e quindi possono essere diffuse. Però a noi tutte queste canzoni che gracchiano, almeno questo è il mio parere personale per quanto concerne Andrea, hanno qualcosa di magico, di fantastico, che dispiace veramente non trasmettere più o accantonare da una parte. Vado oltre Poli passa e vi presenta per l'appunto un brano jazz da paura. Qua siamo nel 1910 o giù di lì. Chiudete gli occhi e sognate con la grande musica di Radio Oltre Po. Al microfono Andrea ancora per un po'. Radio Oltre Po International è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana che dice: tutti hanno diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo, di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Buon ascolto, con i nostri programmi, un abbraccio, a tutti, da Radio Oltre Po International. Thank you. State ascoltando la programmazione di Radio 3 Po. Ogni tanto, o anche sempre, all'interno di Articolo 21, programmeremo un bel brano di musica jazz dei primi del Novecento, come questa canzone che avete poc'anzi ascoltato. Vi ricordo che se vi piace il jazz ancora su vinile della nostra radio, potete reperire gratuitamente queste opere al sito, vediamo un po' se me lo ricordo a memoria, so che dovrebbe essere www.openmusicarchive.org, ripeto, http://www.openmusicarchive.org, per trovare proprio le canzoni che state ascoltando su Radio Oltre Po, almeno per quanto concerne i brani di musica jazz che sono ricavati proprio da vinile. Sono canzoni che hanno praticamente superato la soglia massima della tutela dei diritti d'autore, quindi vengono messe a disposizione, è possibile scaricarle, diffonderle e mi pare, però non sono sicuro, anche diciamo così, rielaborarle magari facendo dei remix o cose del genere. Ricordate, www.openmusicarchive.org è un sito americano creato da, mi sembra, due cantanti, forse jazz degli anni 40, eccetera, eccetera, che hanno messo a disposizione della grande rete la loro grande musica, insomma, quindi potete trovare veramente dei brani leggendari, sia per quanto concerne il jazz, lo swing, brani strumentali, eccetera, eccetera, eccetera. Un bel sito che purtroppo non è che sia, diciamo così, immenso, però c'è una buona reperibilità di materiale che trovate ancora su vinile e trasportato ovviamente in digitale. Quindi un bel sito, veramente ve lo consiglio. E ora continuiamo ancora con la musica in questo programma che, vi ricordo, si chiama Articolo 21. Your fault, they say that things are gonna get better. Entertainment, non è corretto come lo pronuncio io, come invece era pronunciato benissimo questa cantante. Siamo arrivati anche al termine di articolo 21. Io vi rinnovo l'appuntamento ai prossimi nostri programmi, sempre su Radio Oltrepò International. Però vi ricordo una cosa molto importante: non spegnete lo streaming, perché la musica continua fino alle ore 24. Ci saranno anche ovviamente delle piccole repliche di questa trasmissione, perché questa sera abbiamo avuto una bella affluenza di amici e di amiche che hanno scelto lo streaming di Radio Oltrepò e ho avuto dei problemi nella registrazione. Comunque buona parte del programma l'ho registrato, se volete riascoltarvelo state connessi, perché appena dopo il grande jazz riprende ancora la registrazione di questo programma. Io vado a mangiare, mi vado a vedere chi l'ha visto, vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia, io sono Andrea, ci ritroveremo ancora prossimamente e vi ricordo ancora il nostro account su Facebook, su Twitter oppure il nostro sito www.radiooltrepo.it. Ricordate, su Twitter e su Facebook ci trovate, richiedete l'amicizia e entrerete nel grande club degli amici e delle amiche di Radio Oltrepò. Ancora una volta un grande abbraccio, un abbraccione dal vostro amico Andrea, ci sentiamo a Dio piacendo nelle prossime edizioni. Ciao ciao e rimanete con Radio Oltrepò, perché si continua ancora con musica e intrattenimento fino alle ore 24. Ho impostato il computer, mi segnala 3 ore e 13 secondi alla sua chiusura, quindi ancora per 3 ore con la nostra grande, grande radio. Grazie, grazie, bye bye, ciao ciao! Hai ascoltato articolo 21 con Andrea. Commenti, suggerimenti, critiche, quello che vi pare, all'indirizzo mail radiooltrepo@live.it. Stai ascoltando la programmazione di Radio Oltrepo.